e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Una partenza un po' rock, anzi una ripartenza con la quale voglio celebrare il ritorno di Nicoletta Carbone. Wow! Eccoci di nuovo insieme. Mi hai fatto fare una bella scarpinata settimana scorsa, però giustamente ci siamo alternate perché qua bisogna ricaricare le pile. Certo, io ho finito l'anno in bellezza con un po' di fatica, poi tu hai lasciato una settimana anche perché lo sai che io intorno al 6 di gennaio c'ho da fare. Hai fatto tutti i giri che dovevi. Perfetto. Tutta posto. Certo. Per fortuna non hai avuto l'influenza come la regina Elisabetta, lei non si è fatta vedere per circa un mese dal 9 dicembre, saltando anche i tradizionali appuntamenti di Natale e Capodanno. Però ieri l'abbiamo vista di nuovo, sì, in un'uscita pubblica insieme al duca di Edimburgo, al principe William, alla bella Kate Middleton, con un bellissimo cappottino blu. Elettrico, bello, hanno sottolineato i giornali. E sì, uno dei suoi inconfondibili cappellini piumato con tanto di spilla scintillante. Sai che anche a me piacciono i cappellini. Sì, lo so, infatti. Ne ho uno da strega che adesso poi metterò sulle nostre pagine. Siamo contenti per la regina perché è molto importante che sia in forma, visto che i prossimi mesi con la Brexit da affrontare non saranno certo leggeri per lei e anche per noi che monitoreremo gli effetti di questo passaggio sui mercati finanziari. E chissà se anche voi, proprio come la regina, avete combattuto in queste feste con un'influenza, chi nella vostra famiglia dareste la corona del più influenzato, perché ci sono anche le ricadute. E quali importanti appuntamenti magari siete stati costretti a saltare? 800 24 00 24 il numero per mettersi in contatto con, possiamo dire, le due regine della mattina? Ah, pensavo le due befane del 2017. Come volete voi. A tra poco. Allora, oggi è lunedì e come ogni lunedì che si rispetti, naturalmente il punto sulle previsioni della settimana finanziaria. Intanto la borsa in Europa parte male, abbiamo ribassi a Parigi e a Francoforte di mezzo punto. Londra, appunto, probabilmente celebra il rientro sulla scena pubblica della regina Elisabetta dopo un mese di assenza. Londra è positiva, più 0,15%, Milano invece a metà, fra le altre situazioni, perde lo 0,26%. In realtà Milano era partita molto meglio stamattina, poi ha bruciato tutto rapidamente. Sono arrivate alcune prese di profitto su alcuni titoli che sono cresciuti nelle ultime sedute, mentre il mercato torna a puntare su alcune storie, in particolar modo Fiat Chrysler più 3%. Adesso ne parleremo. I motivi di questa spinta ne abbiamo parlato peraltro diffusamente anche settimana scorsa. È un gruppo che sta andando bene, ha presentato delle novità alla fiera dell'elettronica, la più grande rassegna dell'elettronica di consumo a Las Vegas. E poi è partito il Salone dell'Auto di Detroit, il gruppo promette 1 miliardo di investimenti nel Michigan e negli Stati Uniti, tanto per quietare un po' Donald Trump, che sta facendo guerra a tutte le grandi imprese automobilistiche per imporre loro di tornare a produrre negli Stati Uniti e non più nel Messico o altrove. Poi, tra gli altri titoli di Piazza Affari in evidenza stamattina, Yuxe Net-a-Porter più 1,81%, Terna in rialzo di un punto con STM che recupera. STM è stata molto bastonata dai mercati settimana scorsa, ma non vorrei dire altro perché ci facciamo aiutare a raccontare invece quelli che saranno i temi della settimana da Luca Di Scacciati, trader, analista finanziario di investire.biz, amico di Cuore e Denari, a cui diamo il buongiorno e il buon anno. Luca, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno Debora e bentornata Nicoletta. Grazie. Eccoci qua, infatti si era anche accorto, si era accorto anche lui della tua assenza settimana scorsa. Allora, da che cosa cominciamo di Scacciati? Intanto, naturalmente, comincerei da questa abbinata curiosa, della quale in realtà in pochi ci siamo accorti, voi trader invece specializzati nell'osservare proprio questi andamenti state notando da molto tempo questa accoppiata. Stiamo provando a capire se il Dow Jones e il mercato americano, quindi, ma anche Milano, possono provare a toccare i 20.000 punti. Per il Dow Jones americano, esatto, sarebbe il record storico assoluto. Non so se Piazza Affari abbia mai toccato questo livello, ma credo di sì, perché sì, ancora hai voglia. Già a gennaio dell'anno scorso eravamo a questi livelli, quindi sì. Non giriamo subito il coltello nella piaga dell'anno scorso, perché ricordiamo bene lo scorso anno come è iniziata, con un calo molto brusco per i listini internazionali a causa della crisi cinese. Ma andiamo un po' a questo primo tema. Secondo lei ci ritorneremo su questi livelli per Milano e quando toccheremo invece questo record a Wall Street? Allora, io credo che entrambi questi numeri siano davvero vicinissimi per entrambi i mercati. Sul Dow Jones appunto siamo veramente ad un soffio, sull'indice italiano i rialzi ultimamente sono stati davvero importanti, ora c'è un po' di paura appunto per questo, perché giustamente come hai appena detto tu, l'anno scorso proprio in questi giorni è cominciato un ribasso sull'indice italiano che addirittura ha portato i prezzi del nostro indice a perdere più del 20%, quindi un po' di paura. Personalmente noi siamo rialzisti, quindi un eventuale storno lo sfrutteremo come occasione d'acquisto. Allora, andiamo invece, a parte queste previsioni e chiaramente che ci portano ad osservare attentamente l'andamento di mercato nei prossimi giorni, andiamo invece a quelle che saranno sicuramente le certezze, i dati macroeconomici che arriveranno nelle prossime giornate e quelli che influenzeranno presumibilmente di più l'andamento appunto delle sedute di borsa. Esatto, esattamente come un anno fa, molta attenzione sulla Cina. Domani abbiamo l'IPC, l'indice dei prezzi al consumo annuale cinese, che è previsto stabile. Chiaramente questo è un dato molto importante per tutta l'economia mondiale, proprio perché questo dato misura i cambiamenti nei prezzi dei beni e servizi dal punto di vista del consumatore. Poi mercoledì abbiamo i dati sui nuovi lavori negli Stati Uniti, la produzione industriale manifatturiera in Inghilterra e soprattutto sempre mercoledì le scorte di petrolio greggio, dato che il prezzo del petrolio è sempre importante per la stabilità dei mercati. Giovedì discorso di Carney, quindi governatore della Bank of England, e venerdì il discorso della Yellen con le vendite al dettaglio e l'indice dei prezzi di produzione sempre negli Stati Uniti. Vi scacciate a proposito della Cina che lei ha citato poco fa. Allora, venerdì siamo stati abbastanza sorpresi dell'iniziativa presa di apprezzare lo yuan nei confronti del dollaro. Oggi invece praticamente la Cina fa esattamente il contrario e taglia di quasi lo 0,9% il tasso di riferimento della moneta locale contro il biglietto verde. Come mai? E che effetto c'è stato? Esatto, chiaramente sappiamo tutti che deprezzare la propria valuta consente di esportare maggiormente nei mercati stranieri, quindi probabilmente questa mossa è dovuta proprio per questo, per aumentare le esportazioni. Tra l'altro mossa che non è stata per niente apprezzata da Donald Trump, che nelle ultime settimane sempre attraverso i social network si è schierato veramente in maniera pesante contro la Cina, quindi il focus sembra che si sia spostato rispetto alla precedente amministrazione dalla Russia alla Cina, tant'è che appunto invece Trump ha dato dei segnali di forte apertura nei confronti della Russia, ecco. Quindi sicuramente per sostenere quella che è l'esportazione verso l'estero, quindi un dato molto importante per l'economia cinese. Intanto ricordiamo che venerdì è stato diffuso anche l'importante dato sulla disoccupazione americana, poi a prescindere da quello che è accaduto nel mese di dicembre, in realtà è stata colta l'occasione per fare un punto su quello che è riuscito a fare l'amministrazione Obama in questi 8 anni, e quando ha assunto la presidenza appunto 8 anni fa la disoccupazione americana era arrivata quasi ad oltre il 9%, complice la drammatica crisi finanziaria, praticamente dimezzata in questi 8 anni. Esatto. In dicembre il tasso è stato del 4,7%. Detto questo, altri temi da segnalare di scacciati? Poi volevo segnalarne un paio io per Piazza Affari, perché abbiamo un nuovo ribasso di Poste Italiane, c'è un nuovo caso di tra virgolette risparmio tradito, del quale io anticipo già gli ascoltatori ci occuperemo mercoledì, parleremo dei sottoscrittori dei 4 fondi immobiliari collocati nel periodo 2002-2005, per i quali si prefigura appunto un rimborso microscopico per i sottoscrittori. E poi domani anticipo invece agli ascoltatori che ci occuperemo della proposta di rimborso nei confronti degli azionisti di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, proposta di rimborso che viene effettuata oggi pomeriggio, quindi domani spiegheremo agli ascoltatori quanto potranno vedersi indennizzare, anche se sappiamo già che praticamente è molta poca cosa rispetto all'investimento iniziale. Di scacciati, gli ultimi temi a suo giudizio da osservare nei prossimi giorni? Sì, a livello di mercati globali stiamo seguendo molto le valute, in quanto nel 2017 ci aspettiamo una gran forza del dollaro. Quindi per esempio proprio questa mattina sterlina contro dollaro, quindi la sterlina ha subito molto la forza del dollaro, addirittura perdendo oltre l'1%, anche su euro dollaro siamo assolutamente ribassisti, quindi anche in questo caso la forza del dollaro durante il 2017 dovrebbe farsi sentire. Un altro strumento finanziario sempre molto seguito è l'oro, anche qui abbiamo una tendenza al ribasso di questa materia prima, che invece nel breve si sta muovendo al rialzo. Noi crediamo che un raggiungimento a $1,200 per oncia appunto potrebbe scatenare delle vendite e quindi riprendere appunto questo trend di lungo periodo al ribasso. L'ultimo tassello lo metto io, è il petrolio, che si era rialzato nei giorni scorsi, oggi un pochino in discesa. Abbiamo il WTI americano a $53,45, il Brent di Londra a $56,50. Grazie di Scacciati, esatto. Buona giornata, a presto. Grazie mille, alla prossima. Che dici, andiamo a sentire il traffico? Il traffico e poi la rassegna stampa della salute. Cuore e denari. E per la rassegna stampa di salute torniamo ad occuparci di meningite, un nuovo caso sospetto a Torino, dove è deceduto un ragazzo di 25 anni. Il giovane residente a Valperga, nel torinese, lamentava febbre alta. Trasportato dall'elisoccorso è arrivato in ospedale in condizioni drammatiche. Saranno però gli esami nelle prossime ore a stabilire se a causare il decesso sia stata effettivamente la meningite. A scopo precauzionale naturalmente è stata avviata la profilassi del caso ai familiari. Un altro caso sospetto è stato registrato in Puglia, dove una bambina di 8 anni è stata ricoverata con i sintomi della meningite. Proprio in Puglia in questi ultimi giorni si sono registrati altri casi. Il primo, che è stato accertato a Barletta su un paziente di origine senegalese, è stato di natura virale. Il secondo invece accertato ad Andria su un paziente giovane di 17 anni di natura batterica. In linea con noi torna a trovarci il nostro esperto, il professor Roberto Burioni, medico ordinario di microbiologia e virologia all'Università San Raffaele di Milano e autore di Il vaccino non è un'opinione. Mondadori, buongiorno. Buongiorno. Professore, intanto buon anno. Nonostante i casi di meningite aumentino, medici e autorità sanitarie rassicurano che non è in atto un'epidemia. Sulle pagine di Epicentro, che è il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica, Fortunato D'Ancona, Maria Grazia Caporali, Paola Stefanelli dell'Istituto Superiore di Sanità scrivono che si tratta solamente di una epidemia mediatica in cui il patogeno, che si sta moltiplicando a dismisura, contagiando giornali e lettori, è semplicemente la notizia giornalistica. Partiamo da qui, professor Burioni, quindi troppo rumore per nulla. No, non c'è nessuna emergenza. Il numero dei casi di meningite nel nostro paese, che è sempre un pochino meno di 200 all'anno, di meningite da meningococco, è sostanzialmente stabile. Quindi non c'è nulla di cui avere paura, come diceva Roosevelt, se non della paura stessa. È anche vero però che la meningite è una malattia molto grave, molto difficile da diagnosticare e che può avere conseguenze tragiche. Insomma, gli incidenti stradali non sono in aumento, però noi dobbiamo guidare con prudenza, certo, e allacciarci le cinture. Ecco, la meningite non è in aumento, non c'è da avere paura, non deve scattare il panico, però è anche vero che è una malattia pericolosa, per la quale, come abbiamo detto molte volte, c'è un vaccino molto efficace e quindi invece di avere paura e di farci prendere dal panico, dobbiamo utilizzare questo vaccino, non tanto vaccinarci noi quanto soprattutto vaccinare i nostri figli. Facciamo qua chiarezza, perché anche sulla necessità di chi dovrebbe vaccinarsi, professor Burioni, c'è un po' di confusione. Mi aiuta un po' a fare chiarezza? Allora, la vaccinazione è un atto medico, quindi chi deve vaccinarsi e chi non deve vaccinarsi lo deve decidere il medico, questo l'abbiamo detto dall'inizio, insieme al fatto che non c'era un'emergenza, certo, l'abbiamo sempre detto. Allora, è molto importante vaccinare i bambini molto piccoli, perché in questa fascia d'età la meningite è particolarmente frequente e particolarmente pericolosa. Questo vaccino, che è molto sicuro e molto efficace, però non dà un'immunità perpetua. Purtroppo lo vorremmo con l'immunità perpetua, ma non tutto nella vita, nella ricerca riesce. Quindi bisogna fare dei richiami. È molto importante fare un richiamo quando il bambino è un pochino più grande, perché questo secondo richiamo sembra essere fondamentale per diminuire la circolazione del batterio, che circola particolarmente, senza dare malattia nella grandissima parte dei casi, però circola nella popolazione dei giovani adulti, quindi dei teenager. Quindi bisogna parlare col pediatra, e la regola è quella di vaccinare i bambini molto piccoli e poi fare un richiamo quando deve essere fatto. Per quanto riguarda gli adulti, non c'è un'indicazione generale alla vaccinazione in una situazione come la nostra, dove non c'è un'epidemia, però in alcuni casi può essere indicato, e per cui gli adulti che hanno motivo di pensare, oppure che solo hanno paura, ne devono parlare con il proprio medico, che saprà consigliarli per il meglio. Però la cosa importante è vaccinare i bambini se non esistono controindicazioni, che non esistono quasi mai. Quella è una cosa importante. Professore, Elisa ci chiede quanto dura la copertura del vaccino contro la meningite, ci manda un WhatsApp al 349-238-6666, se volete approfittare inviateci le vostre domande o chiamate il nostro numero verde. Professor Burioni. La copertura di un vaccino si misura sul campo. Noi non abbiamo, possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo in laboratorio, però poi alla fine la misuriamo sul campo. La protezione che viene data da un vaccino non è solo quella individuale, cioè non è soltanto il bambino che si vaccina e che per un certo numero di anni non prende la malattia. La protezione è anche quella che viene data dal fatto che vaccinando tutti il germe non circola più. Quindi anche chi ha perso la protezione, che sembra durare alcuni anni, i dati sono un pochino discordanti su questo, ma dove i dati sono invece univoci, e sul fatto che se vacciniamo tutti questo germe non circola più e quindi sono protetti anche quelli che hanno perso l'immunità. In Inghilterra sono passati da 1500 casi all'anno a 14. Professore, quello che abbiamo imparato è che la meningite è una malattia molto pericolosa che si presenta in maniera anche subdola. All'inizio i sintomi mimano quelli di una normale influenza, che tra l'altro in questi giorni sta mettendo a letto sempre più italiani, ma poi nella meningite la situazione precipita. Ma professore, di fronte a febbre alta, mal di testa, dolori muscolari, rigidità, è facile perdere la testa. Diamo qualche indicazione, professore. Guardi, purtroppo una degli elementi che rende questa malattia molto pericolosa è la difficoltà di una diagnosi precoce. E quello che lei ha detto è molto giusto, la meningite si presenta all'inizio con qualcosa che è piuttosto simile a una grave influenza, febbre alta, mal di testa, e poi purtroppo ad un certo punto le cose precipitano. E quando precipitano, chiaramente intervengono i medici con le terapie, ma abbiamo detto non sempre queste terapie sono coronate da successo. Quindi purtroppo questo rende ancora più importante il ruolo del vaccino che la previene. È chiaro che senza farsi prendere dal panico, chiaramente se un bambino sta particolarmente male, la febbre è particolarmente alta, oppure comincia ad avere qualche sintomo neurologico, per esempio sonnolenza, oppure non è lui. Le mamme sanno riconoscere, anche papà. Immediatamente dal medico, perché solo un medico può diagnosticare la meningite, ed è difficile anche per il medico nelle fasi iniziali. Quindi purtroppo in questo caso non si può fare da soli a casa. Professore, per gli ultimi minuti riflettiamo sulla paura che fa sicuramente fiorire anche le bufale, alimenta i pregiudizi, uno in particolare si è occupato anche lei nel suo blog, ed è quello relativo al fatto che siano i migranti che arrivano dal continente africano a portare la meningite. Professore? No, questa è proprio una cosa che ammettiamola, proprio sottolineiamo. Purtroppo in Africa la meningite è epidemica, i casi sono molto di più, anche se grazie al vaccino che viene usato stanno calando anche in Africa. In Africa c'è proprio una zona che viene chiamata la fascia della meningite, che è l'Africa subsahariana. Però i ceppi che circolano in Africa sono diversi da quelli che circolano in Italia, per cui ogni batterio ha, diciamo così, una sua impronta digitale, e quindi noi li possiamo riconoscere. I ceppi italiani sono diversi da quelli africani, per cui non c'è motivo di temere per questo aspetto un ruolo della immigrazione o anche degli spostamenti italiani in Africa, perché poi la direzione non è unica, è sempre bidirezionale. No, i migranti non c'entrano proprio niente in questo specifico caso. Professore, in ogni caso la storia insegna che quando le malattie si vedono o tornano a vedersi, la paura nei vaccini scema o perlomeno non è così sembra così radicata. Conviene con me? Assolutamente vero, guardi. Purtroppo i vaccini sono vittima del loro successo, o per fortuna anzi, diciamo, perché il successo è il fatto che non vediamo più dei bambini morire. Ecco, perché una volta si vaccinava? Perché la gente aveva ben in mente che cosa voleva dire un bambino costretto in una sedia a rotelle per tutta la vita a causa della poliomielite, oppure un bambino morto atrocemente di difterite. Io, mio padre, un pediatra in pensione, ha visto un bambino morire nel 59 di difterite. Mi dice, chi ha visto questo non si pone più il problema dei vaccini. Ecco, e noi dobbiamo proprio fare uno sforzo, uscire da queste reazioni alla paura e sapere che dobbiamo vaccinare sempre, dobbiamo vaccinare tutti i nostri bambini, perché, ripetiamo ancora, non è solo un atto di protezione individuale, ma è un atto di responsabilità sociale. Chi vaccina i bambini contro la meningite protegge anche quelli della mia età, che insomma non hanno nulla a che fare con i bambini, ecco. Professore, per chiudere mi segnalano Rosalba da Varese, però non riesco a mandarle in voce, leggo naturalmente l'oggetto della sua domanda. Il figlio ha fatto la vaccinazione pneumococco, fa parte del ceppo per la meningite, ci chiede Rosalba? Lo pneumococco è un patogeno molto pericoloso che causa anche meningiti, tra l'altro. Ha fatto benissimo la signora Rosalba a vaccinare il figlio, però noi stiamo parlando delle meningiti da meningococco, è un altro patogeno. Un'altra indicazione per un'ascoltatrice, Maria, un insegnante di scuola primaria, lavora in aula sovraffollata ed eccessivamente riscaldata, è opportuno che mi vaccini, chiede Maria, in 10 secondi. È uno di quegli adulti che deve parlare col proprio medico. Grazie professor Burioni, a presto, grazie, buona a voi, giornata. Arrivederci Nicoletta, arrivederci Deborah, buongiorno, grazie. E noi andiamo a sentire le notizie del nostro GR, ritorniamo insieme subito dopo con Cuore Denari, seconda parte. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Cuore e denari. Un po' di denaro sparso qua e là in giro per il mondo ce n'è naturalmente. Allora, con il nuovo anno è stata lanciata la seconda campagna di rientro e emersione dei capitali detenuti all'estero dopo quella del 2015, della quale abbiamo parlato tante volte. Allora, anche noi affrontiamo questa mattina la Voluntary Disclosure 2.0, tanto per utilizzare dei termini finanziari in inglese che tanto piacciono ai nostri ascoltatori e quindi qua bisognerà fare delle traduzioni simultanee, ma sarà bravissimo a farle adesso, a parte poi tradurre in italiano i termini in inglese, in realtà sono forse a volte i concetti fiscali che vanno tradotti a beneficio dei contribuenti italiani, perché molto spesso non ci orientiamo con grande facilità in questo mondo, soprattutto in un campo come questo che è abbastanza complesso. Fabio Guffanti, consulente fiscale, buongiorno, intanto grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ha studiato per bene tutta la Voluntary Disclosure 2.0, il nuovo scudo fiscale in questa versione 2017 per i nostri amici che ci seguono da casa? Ahimè, assolutamente sì. Allora, io chiedo subito ai nostri ascoltatori, chiamateci se avete il dubbio che una somma, un reddito percepito all'estero, un immobile comprato in qualche zona fuori dall'Italia vi metta in una situazione irregolare. Fateci le vostre domande sulla procedura appunto del nuovo scudo fiscale versione 2.0, ad esempio se avete lavorato e vissuto per un periodo fuori dall'Italia o avete delle proprietà, un conto ancora all'estero. Le persone di cui parliamo oggi, torniamo a ribadirlo, non sono i grandi evasori fiscali, ma possono essere anche contribuenti come noi tutti che però si trovano di fronte a queste situazioni un po' complicate da sanare. Per cui il numero verde è sempre lo stesso, è l'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666. Io leggo gli sms, Nicoletta monitora WhatsApp con attenzione. Mi piace. Eccoci qua. E quindi pronti appunto a rispondervi. Intanto, Guffanti, cominciamo subito con l'ABC per chi non ne avesse mai sentito parlare. Cos'è la Voluntary Disclosure? Che risultati ha dato peraltro la versione del 2015, poi spiegheremo anche come funzionava, ma se non mi ricordo male era andata in archivio con almeno una sessantina di miliardi di emersione e 4 di incassi fiscali per lo Stato. Le previsioni per questa nuova operazione quali sono? Allora, le previsioni per questa nuova operazione, almeno nel preventivi del bilancio dello Stato, dell'ultima legge di bilancio, si aggirano sui 2 miliardi di euro di incassi. Più che altro io credo che il governo pensi e creda che molti capitali che non sono rientrati con la prima versione della voluntary disclosure possano rientrare con questa, e faccio riferimento soprattutto a quei capitali detenuti in certi paradisi fiscali come potevano essere Hong Kong, le isole Cayman, le isole del canale inglese, le isole Cook, Gibilterra, Dubai. Vedo che le conosce tutte bene. Sì, non solo per motivi turistici, ma vabbè, io non sono anche stata maliziosa, mai. Lo è lei. Anche per motivi fiscali. E quindi penso che ritengano, visto che questi paesi oggi hanno stipulato degli accordi collaborativi con lo Stato in italiano, che vuol dire, detto in per parole lo scambio povere, di informazioni fiscali, sì. Ecco, che essendoci questo scambio, i contribuenti che con operazioni macchinose e complesse hanno portato i capitali in quei paesi siano indotti a questo punto a far rientrare i capitali. La fanno franca con un po' più di difficoltà, ecco, se volessero continuare a mantenere i loro capitali in queste aree. Sono un po' meno protetti rispetto al passato. Detto ciò, Guffanti, andiamo proprio tecnicamente parlando alle differenze fra l'operazione del 2015 e l'operazione appunto di quest'anno. Come sarà possibile per un contribuente italiano che non detiene capitali nei paradisi fiscali, ma colui che magari ha fatto un piccolo investimento all'estero, ha lavorato per qualche mese in un paese appunto dell'eurozona, ma non ha capito che per esempio queste situazioni andavano anche comunicate al fisco italiano, e come lo potrà fare appunto con la nuova voluntary disclosure, quali differenze rispetto all'altra operazione? Allora, diciamo che innanzitutto la prima differenza riguarda i periodi d'imposta, che si possono sanare, nel senso che con la nuova voluntary disclosure si possono sanare anche il 2014 e il 2015, che non erano compresi come annualità nella prima versione. Quindi questa è la prima novità. La seconda novità è rappresentata dal fatto che con la prima versione si poteva aderire sia alla cosiddetta voluntary disclosure internazionale, cioè regolarizzazione di capitale e patrimoni all'estero, ma c'era anche la cosiddetta collaborazione nazionale, cioè la possibilità di far emergere redditi non dichiarati in Italia e prodotti in Italia. La novità di questa voluntary disclosure bis è che si dà la possibilità, per esempio, a chi ha fatto la voluntary 1 per quel che riguarda l'estero di poterla fare per quel che riguarda redditi nazionali, e viceversa per chi l'aveva fatta la voluntary 1 per redditi nazionali di poterla fare per i redditi esteri. La terza e forse più importante novità è quella che crea anche molti problemi, per cui si aspettano le necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. La procedura. È la procedura che, contrariamente alla prima versione della voluntary, si dà la possibilità di autoliquidare. Un po' come si fa con la dichiarazione dei redditi, tanto per capirci. Con la precompilata, dice? Fa un parallelo con quella? No, autoliquidare le imposte dovute con il meccanismo della voluntary. Quindi è il contribuente, o meglio il professionista, che presentando l'istanza deve provvedere a calcolare già le imposte dovute, le sanzioni e gli interessi, e provvedere al pagamento. questa autoliquidazione che vantaggio dà rispetto al fatto di presentare l'istanza e lasciare che sia poi l'Agenzia delle Entrate a calcolare a le imposte, un po' come era successo per la prima versione, dà il vantaggio di minori sanzioni, di una percentuale minore della sanzione applicata. Perché se io provvedo a... Perché ti fa lo sconto l'agenzia che non la fai lavorare? Ah, certo che sì, ma questo indubbio è il meccanismo perverso dei nostri provvedimenti legislativi, dove fra l'altro anche il testo della seconda voluntary disclosure è tutt'altro che chiaro in molti punti, un po' come era avvenuto nella prima versione, tant'è vero che hanno dovuto emanare tra circolari e risoluzioni 4-5 provvedimenti che veramente una legge scritta bene ne avrebbe richiesto forse uno o due. E quindi con la possibilità dell'autoliquidazione lo sconto sulle sanzioni rimane al 50% come era nella prima versione della voluntary disclosure. Se io non autoliquido le imposte, sanzioni e interessi, ma lo lascio fare all'ufficio, questa riduzione sale al 60%, quindi è una minor riduzione. Se si tratta di redditi e patrimoni detenuti in paesi cosiddetti collaborativi o whitelist, e all'85% se si tratta invece di paesi blacklist. Senta però Gufanti, la interrompo per un attimo. Allora lei ci sta parlando di meccanismi sanzionatori che sono... Sì. Però quando noi ricordiamo le precedenti operazioni di scudo fiscale, quelle tre operazioni appunto che sono state fatte sotto i vari governi Berlusconi, sì, dal ministro Tremonti, adesso non ho fatto nessun commento di carattere politico, solo per definirle a livello, certo, appunto temporale, mi ricordo che naturalmente per ogni tot di capitale che rientrava veniva fissata un'aliquota sulla quale appunto il contribuente doveva effettivamente appunto fare il versamento, che era cosa diversa appunto dal meccanismo sanzionatorio. Quindi in questo, sì, caso per un tot che rientra o che per un tot che viene regolarizzato, sanato, che viene emerso, si paga anche un'aliquota fiscale fini IRPEF e poi la sanzione o no? Questo non ho capito. Allora, sì, forse non mi sono espresso bene. L'effetto premiale della voluntary è solo nello sconto sulle sanzioni, in quanto l'imposta dovuta, quindi l'IRPEF, o l'imposta sostitutiva, poi spiego meglio la differenza tra le due, è comunque dovuta in misura piena, cioè è comunque dovuta nella misura normale. Perché invece nelle altre operazioni ricordiamo che ci furono delle aliquote differenziate a seconda appunto dell'anno dello scudo. Il primo prevedeva un'aliquota del 4%, nell'operazione nel terzo scudo fra il 2009 e il 2010 c'erano state appunto due riaperture con delle aliquote differenziate 5, 6, 7%. E invece in questo caso si deve l'imposta piena e la sanzione nella misura del 50%, è ridotta al 50% se io autoliquido l'imposta, viceversa è ridotta al 60%, quindi c'è un 10% in meno di riduzione se si tratta di paesi collaborativi, o all'85%, quindi c'è un 35% in meno di riduzione se si tratta di paradisi fiscali, cioè cosiddetti paesi blacklist. Allora, direi di sentire anche un ascoltatore, Gufanti, poi andiamo, sì, agli altri dettagli. Entro, sì, quanto tempo si può fare l'emersione secondo questi nuovi criteri, chi è escluso e quindi chi non può assolutamente aderire? Intanto sentiamo il caso di Giacomo da Milano. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno, auguri. altrettanto a voi. Volevo fare una domanda. Io ho un mini appartamento che era stato acquistato da mio padre 30 anni fa circa, in un paradiso fiscale che adesso non è più paradiso fiscale. Non è mai stato ce la dice Monte Carlo. Non è mai stato denunciato. Volevo sapere se io devo pagare una tassa, una multa, una sanzione. La pago sul valore di quando è stato acquistato o il valore attuale. Primo. Oppure devo pagare anche l'IRPEF anche se io non l'ho affittato, oppure in base all'affitto devo pagare una quota di IRPEF È affittato adesso l'abitazione, tasse. Giacomo? Come? Adesso è affittata l'abitazione? In questo momento sì, è affittata. Mannaggia, perché io e Nicoletta volevamo già andare. Detto questo. Va bene, allora, quindi in questo momento è affittata, deve pagare appunto sulla base del valore dell'immobile quando è stato acquistato, sulla base del valore attuale. Giacomo, abbiamo terminato le domande? Sì. Grazie. Guffanti, mi pare anche un caso semplice, così magari ci si possono riconoscere anche altri ascoltatori. Assolutamente sì. Allora, in questo caso... il canone d'affitto è soggetto alle normali aliquote progressive IRPEF, quindi non si può assolutamente applicare cedolari secche o altre aliquote agevolate. Quindi sul canone d'affitto dovrà liquidare l'IRPEF più le relative sanzioni ed interessi. In questo caso diciamo che la base imponibile dell'immobile sarà diversa ai fini della liquidazione delle sanzioni dell'RW rispetto al pagamento della imposta IVIE. Ricordo agli ascoltatori che l'imposta IVIE è un'imposta che è stata introdotta dal governo Monti ed è un'imposta sul valore degli immobili all'estero che si paga in maniera percentuale, attualmente lo 0,4%. La base imponibile per la IVIE, notizia buona per l'ascoltatore, per Giacomo, il nostro ascoltatore, recentemente l'Agenzia delle Entrate con una risoluzione ha detto che la base imponibile è il costo d'acquisto dell'immobile al cambio del giorno dell'acquisto. Quindi, visto che all'epoca dell'acquisto non c'era ancora l'euro, perché mi è parso di capire che... Sono 30 anni che ha comprato questo appartamento. Diciamo però che in questo caso, per il nostro ascoltatore, rileva il giorno della successione, però. Quindi, quando lui... Se avesse ereditato 5 anni fa in pieno euro, varrebbe il valore dell'immobile in quel momento? Assolutamente sì, bisogna fare il calcolo del valore dell'immobile alla data della morte e a quel punto 6-5 anni fa non si pone un problema di cambio perché c'era già l'euro. Ha capito Giacomo, insomma, quindi le conviene secondo me insomma informarsi molto nel dettaglio. Allora, la procedura, fino a quanto c'è tempo, naturalmente siamo proprio all'inizio dell'anno, quindi ancora qualche settimana per riflettere su quello che dobbiamo fare, ce l'abbiamo. Abbiamo tempo fino all'estate, no? Per definire la propria posizione mediante questa nuova procedura. Assolutamente sì, c'è tempo fino al 31 luglio 2017 per la presentazione della prima istanza e poi c'è tempo fino al 30 settembre 2017 per la presentazione della relativa relazione accompagnatoria, perché ricordo agli ascoltatori che l'istanza non è l'unico documento che va presentato, ma bisogna presentare anche una relazione accompagnatoria che è un po' esplicativa dei patrimoni e dei redditi che sono stati conseguiti e detenuti all'estero. ed entro il 30 settembre si può anche presentare un'istanza integrativa, perché potrebbe benissimo essere che io ho compilato un'istanza, mi accorgo poi di un errore o che non ho inserito determinati patrimoni o redditi, e quindi entro il 30 settembre posso presentare un'istanza integrativa. 30 settembre è anche il termine per il pagamento dell'imposta se io decido per l'autoliquidazione, mentre viceversa se decido di non autoliquidarmi io le imposte, aspetterò che sia l'ufficio a mandarmi i cosiddetti inviti a comparire e gli atti di contestazione delle sanzioni. Secondo lei, Guffanti, a chi conviene avventurarsi sul terreno dell'autoliquidazione anche nei casi più semplici, come ci poteva sembrare per esempio quello di Giacomo poco fa, un immobile a Monte Carlo, non ha mai regolarizzato, adesso regolarizza. Poteva secondo lei così avventurarsi sull'autoliquidazione, o comunque sempre bene, per evitare errori di calcolo e sanzioni che potrebbero arrivare in un secondo momento, evitare questa procedura? Se però insomma il provvedimento, la facoltà la dà, forse non è così difficile. Lei che cosa suggerisce? Ma io per i casi semplici sicuramente direi che vale la pena provare di procedere con l'autoliquidazione. Anche perché nel provvedimento... Breve, che stiamo chiudendo, grazie, mi scusi. È stata inserita una norma assolutamente poco chiara, per cui si dice che se io sbaglio a fare i conti, se la differenza accertata in più dall'ufficio è superiore al 10%, ho una maggiorazione del 10% delle somme da versare; se è inferiore o uguale al 10%, ho una maggiorazione del 3%. Quindi è un rischio che si può correre. Brava. E si pone anche una grossa responsabilità in capo al professionista che redige l'istanza, perché a quel punto bisognerà anche decidere chi sarà responsabile di queste maggiori sanzioni. Quindi consiglio ai colleghi di farsi dare una manleva per le sanzioni che dovessero essere irrogate dall'Agenzia delle Entrate. Grazie Fabio Guffanti per essere stato con noi. Gli ascoltatori che stanno chiamando proprio in questi ultimi istanti, non facciamo in tempo a sentirli, ma ci potete scrivere a cuoredenari@radio24.it. Come sempre si apre la serranda nel pomeriggio, nei prossimi giorni risponderemo a tutti. Grazie molte, Guffanti, buon anno. La borsa e poi l'approfondimento di cuore. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Cuore e denari. Dai, ricominciamo l'Epifania, tutte le feste le porta via, e quindi chiudiamo con i festeggiamenti. Tra l'altro, Deborah, sai che Adriano ha festeggiato proprio il suo compleanno il giorno della Befana. Grandissimo, sì. Però lo sento in gran forma, c'è il nuovo disco con Mina. Io l'ho regalato a mio cognato per Natale, vuoi sapere altro? Bene. No. Salutiamo che... Rosita? Dai, volentieri, smack. Allora, noi Celentano l'abbiamo sistemato con gli auguri, abbiamo mandato i baci anche a Rosita, allora pensiamo seriamente a noi a questo punto, all'anno che ci attende. In questa ultima parte della trasmissione cerchiamo di capire come sfruttare quella piacevole voglia di nuove, di rinnovamento che ogni inizio porta con sé, e lo facciamo per provare a coltivare il nostro nuovo progetto di salute. Qual è il vostro? Che cosa fate per stare bene? 800 24 00 24, parliamone insieme e ripartiamo con un grande amico di Cuore Denari che è in linea con noi, il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging e autore tra l'altro di numerosi libri. Uno in particolare che vorrei citare oggi, Fino a 100 anni, prevenire, vivere e invecchiare al meglio, Ponte alle Grazie editore. Dottor Ongaro, buongiorno, bentornato. Grazie, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, auguri, perché non ci siamo altrettanto sentiti, quindi... grazie. Bello, allora si ricomincia e si ricomincia aprendosi al cambiamento, alle novità. E questo è un po' il segreto per invecchiare bene in salute, nel corpo e nella mente. Lei, che da anni si occupa di medicina anti-aging, può spiegarci la ragione con tanto di dati e di ricerche alla mano. Dottor Ongaro. Ma diciamo che c'è un equilibrio delicato da cercare di raggiungere per invecchiare bene tra la novità, la curiosità, l'apprendimento continuo, quindi lo stimolo nel cercare di migliorarsi nel corso della vita, e anche però un certo grado di ripetitività e di abitudine. E la ragione scientifica è che da un lato possiamo stimolare la neuroplasticità, che è proprio questa caratteristica del nostro sistema nervoso che, diciamo, fino a un po' di anni fa veniva considerato piuttosto statico dopo i periodi iniziali della vita. In realtà oggi sappiamo che è in continuo adattamento, e quindi la neuroplasticità è la risposta a livello nervoso ai nostri stimoli, che significa proprio che si aprono dei circuiti nuovi che potenziano, facilitano, migliorano le tue capacità a livello mentale. Ma questa neuroplasticità ha bisogno sì della novità, ma anche di un certo grado di pratica deliberata. Questo è il termine che viene dato in psicologia proprio a questa esposizione costante a determinati stimoli, che è una sorta di allenamento poi, e che è proprio quello che nel tempo permette il miglioramento della prestazione e della condizione psicofisica. Quindi credo che invecchiare bene sia un misto tra rimanere curiosi e aperti, e anche però un certo grado di abitudini salutari da ripetere giorno dopo giorno, che poi in definitiva sono l'essenza di un progetto di salute. Allora, il bello deve ancora venire, dottor Ongaro, e Homo Faber, fortune sue. Possiamo dare queste due indicazioni che ci guideranno un po' nella nostra chiacchierata. 800 24 00 24. Quando dite mi sento bene, che cosa è necessario per voi? Ma soprattutto, che cosa fate per stare bene e per mantenere il vostro capitale salute? Deborah, lo chiamo così, ti piace? Assolutamente sì, mi pare un termine cuore denari perfetto. Allora, dottor Ongaro, all'inizio dell'anno tutti noi siamo contagiati da quella sottile, piacevole voglia di fare cose nuove, di organizzare, di progettare, ma anche di cancellare un po' con un colpo di spugna gli automatismi, la pigrizia, le cattive abitudini. Ci piacerebbe in questo 2017 fare per una volta sul serio, quindi decidere una meta, un obiettivo, delineare un percorso, arrivare e fare centro, senza correre il rischio, che è sempre piuttosto alto e dietro all'angolo, di abbandonare il progetto a metà. Da che cosa partiamo? Sicuramente può esserci utile cercare di capire quanto e che cosa ci fa stare in equilibrio, perché quando stiamo bene, ci sentiamo bene. In equilibrio tra soma e psiche, i cambiamenti si affrontano con maggiore energia, con quell'atteggiamento positivo che ci aiuta poi ad andare avanti. Da che cosa possiamo partire per fare una sorta di check della nostra situazione, dottor Ongaro? Ma credo che sia molto importante partire da un'analisi obiettiva, che significa né supercritica né molto superficiale, di come ci vediamo in questo momento. Sì. E quindi dico non troppo critica, perché, Nicoletta, la tendenza della maggior parte delle persone è di giudicarsi in maniera molto più dura rispetto a quello che farebbe qualsiasi nemico, no? Quindi la tendenza è sempre peggiorativa, quindi un giudizio obiettivo di dove siamo e una comprensione, una visione di dove vorremmo essere, come vorremmo sentirci, come vorremmo vederci. Bisogna costruire una sorta di ponte che ci porta dalla condizione attuale alla condizione, chiamiamola voluta, chiamiamola ideale. E devo dire che in questa costruzione di questo ponte è molto importante capire che è difficilissimo abbandonare le vecchie abitudini se non sostituendole con abitudini nuove. E questo è un concetto importante, perché all'abitudine si dà sempre un certo giudizio negativo, ma in realtà non è così. L'abitudine può essere anche estremamente positiva, dipende dal contenuto. E dunque è più semplice sostituire un'abitudine vecchia. Ne abbiamo parlato tante volte col cibo, no, Nicoletta? Sì, è vero. È più facile sostituire piuttosto che eliminare e basta. Ecco, con l'abitudine e il cibo, le nostre abitudini alimentari si chiamano così per questo, perché non è altro che una forma molto radicata di abitudine. Ecco, quindi muoviamoci in questa direzione, capiamo come siamo oggi, come vorremmo essere, cerchiamo di costruire questo ponte partendo dalla sostituzione di vecchie abitudini che ci hanno portato fuori strada a abitudini nuove che sono più, diciamo, strategiche per arrivare a dove vogliamo. Allora, naturalmente coinvolgiamo i nostri ascoltatori, eh sì. 800 24 00 24, come ci sentiamo, come ci vediamo e come vorremmo vederci o sentirci. Un altro spunto potrebbe essere quello di andare indietro nel tempo e ripensare a un periodo della nostra vita che ricordiamo come soddisfacente. Pensiamo a come eravamo, come stavamo, cosa facevamo, a quali cose davamo alla precedenza, quali erano le nostre abitudini, le nostre passioni, i nostri riti quotidiani. Dottor Ongaro, a volte abbiamo lasciato la strada certa per l'incerta, ma come anticipava lei, abbiamo buttato magari un'abitudine, ma invece era proprio un'abitudine salutare. Sì, no, assolutamente è un punto molto importante anche questo, e aggiungerei a questo aspetto il cercare di ricordare queste cose passate anche in termini proprio di sensazioni e di emozioni vissute, cioè come mi sentivo, deve diventare in un certo senso un dettaglio. Faccio un esempio: non è semplicemente che bello, 3 anni fa ero magro, no? È teorico, ero magro. Come ti sentivi? Ti sentivi leggero, facevi le scale senza fatica, sentivi che i pantaloni non ti stringevano, ti stavano meglio i vestiti che avevi in armadio? Cioè cercare di rendere questi concetti il più pratici, il più dettagliati, il più realistici possibili, anche perché, Nicoletta, un'altra cosa che ci insegnano le neuroscienze è che il sistema nervoso non fa distinzione tra esperienze vissute e esperienze immaginate, e dunque più vivida è l'immaginazione, più realistica è, più il sistema nervoso la percepisce come realtà, e dunque più ci aiuterà a costruire quel ponte di cui stavamo parlando prima. Quindi sicuramente ripartire da periodi della nostra vita dove eravamo in una condizione che ci piaceva e rendere queste memorie molto vive da un punto di vista delle sensazioni può essere un altro passo molto utile. Quindi, ecco. Quindi dottor Ongaro, pensati bene e starei bene? Beh, direi che un po' tirata, ma ci sta. Beh, guarda, su tutta la ricerca molto interessante adesso nel campo della psicologia positiva tende molto a sottolineare questi aspetti qui, insomma, anche il fatto che vorrei che sembrasse banale, basta immaginare di star bene e si sta bene. No, non è così ovviamente, però sicuramente un certo tipo di immaginazione orientata verso la positività e le sensazioni buone che hai vissuto nella tua vita fa perlomeno da controbilanciamento a quello che di negativo inevitabilmente la vita ci può portare, insomma. E allora, se volete scriverci magari delle frasi per ricaricarci, per aiutare a pensare positivo, per tirare fuori quello, il bello che c'è dentro di noi e quindi utilizzarlo un po' come una strada per andare avanti, scriveteci, mandate i vostri messaggi via WhatsApp, ricaricateci all'800 24 00 24. Infine, dottor Ongaro, possiamo anche lavorare sui segnali che il nostro corpo ci manda per apportare poi delle modifiche al nostro stile di vita, perché naturalmente si cambia per stare meglio. Questo è un po', i segnali sono, è un altro termine per parlare sostanzialmente di sensazioni, quindi indubbiamente sì, il segnale della stanchezza, il segnale della sonnolenza quando non dovresti avere sonno, il segnale della scarsa lucidità mentale, il segnale della fatica nel muoversi e nel fare le scale, cioè tutti questi aspetti che indicano che insomma forse non siamo al massimo della nostra forma possono essere confrontati mentalmente con appunto quelle sensazioni che provengono da altri momenti della nostra vita ma che sono presenti nella nostra memoria, in modo tale da fungere da volano, no? Anche da un punto di vista motivazionale per tornare a sentirci bene. Raccontateci le vostre ricette, potete porre le vostre domande al dottor Ongaro attraverso il nostro numero verde 800 24 00 24. Tra poco ci sono le informazioni sul traffico, ma Carmelo, voglio leggere al dottor Ongaro un messaggio di WhatsApp di Nella, che dice che cerca di invecchiare bene camminando tutti i giorni, mangia senza grassi, e c'è quel senza che vorrei poi commentare con lei, ho eliminato quasi del tutto la carne e utilizza sempre curcuma, semi di lino e zenzero. Dottor Ongaro. Sì, molto bene la curcuma, il semi di lino, lo zenzero e le spezie, molto bene il camminare, non necessariamente bene l'aver eliminato tutti i grassi, avrei preferito sentire ho eliminato tutti gli zuccheri, i grassi non sono da eliminare tutti. Perché servono? Sono da selezionare, servono a tantissimi processi biochimici del nostro organismo, quindi un grasso, per esempio, come l'olio extravergine d'oliva, non andrebbe mai eliminato. Allora, ritorneremo naturalmente su questo messaggio di Nella che ci aiuta anche a specificare alcune indicazioni. Arriva anche Alberto da Padova. Molta attività agonistica, assumo tanti frutti rossi, collagene idrolizzato e glutatione. Potete chiedere al dottor Ongaro cosa ne pensa. Dottor Ongaro, intanto lei ci pensi e noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Cuore e denari. Ma che fatica si fa cambiare vita, come cambiare città. E di cambiamento stiamo parlando oggi insieme al dottor Filippo Ongaro. Dottor Ongaro, per cambiare occorre avere, lo sappiamo bene, una motivazione, un progetto e aggiungere anche la costanza nel realizzarlo. Ogni cosa ha il suo tempo. Noi spesso ce lo dimentichiamo, vogliamo tutto subito e quando non vediamo subito i risultati cosa facciamo? Gettiamo la spugna e torniamo alle vecchie abitudini. Penso a quante volte nel corso della vita ci siamo messi a dieta. Poi la dieta era molto restrittiva, Nella proprio ci scriveva ad esempio senza grassi, oppure tante persone eliminano dei gruppi di alimenti, mangiano sempre le stesse cose o hanno una dieta che alla fine gli fa fare tanta fame e abbandonano e quindi poi c'è il famoso effetto yo-yo, l'umore si abbassa e così entriamo in questo circolo vizioso. Dottor Ongaro, metteremo a posto anche questo, ma mi preme dare una risposta ad Alberto da Padova e agli altri ascoltatori, c'è anche Elsa da Palermo che vogliono chiedere un suo consiglio, una due sue indicazioni, ma nello stesso tempo vogliamo anche i vostri consigli, le vostre ricette per mantenere il vostro benessere, la vostra salute o recuperarlo. Allora, Alberto da Padova che cosa fa? Molta attività agonistica, assume tanti frutti rossi e poi aggiunge collagene idrolizzate e glutatione. Potete chiedere al dottor Ongaro, dottor Ongaro, che cosa sta facendo Alberto? Non posso entrare nel merito di una prescrizione nutraceutica personale, perché voglio dire, questa va fatta alla luce di una conoscenza più approfondita del paziente. Comunque è chiaro che se fa, come dice, tanta attività fisica, le cose che sta menzionando possono indubbiamente avere una logica, insomma. Però diamo un'indicazione per chi, che lei, leggo tra le righe, cioè chi fa molta attività fisica, Alberto ci dice attività agonistica, naturalmente è bene si affidi ad un medico esperto e faccia delle integrazioni, non così sul sentito dire oppure acquistate su internet, ma partendo proprio dal suo stato di salute e dalle richieste che il suo organismo gli fa. È chiaro, Nicoletta, nel senso che sebbene gli integratori siano dei prodotti naturali, o si reputa che non facciano nulla, io non sono d'accordo con questa visione, o se fanno qualcosa chiaramente devono essere utilizzati con senso. Certo. E dunque sulla base delle indicazioni, dell'età, dello sforzo fisico fatto, di eventuali anamnesi alimentari, no? che possano mettere alla luce se ci sono effettivamente alcune carenze, quindi senza, ripeto, entrare nel merito, magari questo signore ha fatto tutti questi passaggi, certo. Ritengo che le cose che ha elencato possono avere una logica in un soggetto che fa attività sportiva, però non sono in grado di dire, certo, se fa bene. Il nostro obiettivo è di prendere spunto dalle vostre situazioni, dalle vostre esperienze, per dare poi dei concetti, dei messaggi che possano così aiutare tutti noi a scegliere in modo consapevole. E andiamo ad Elsa che ci chiama da Palermo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno Elsa, benvenuta. Grazie, ben trovati. E allora io volevo dire questo: io ho 84 anni. È una voce, è una voce molto giovane, Elsa. È una voce, quindi, molto portati giovane, e sentiti bene. Tutti, me lo dicono tutti, ma soprattutto un corpo molto giovane, nel senso che, ringraziando il Signore, non ho assolutamente alcuna patologia, dal piccolo dolore al ditino, al ginocchio, questo e quell'altro. Come ho fatto per avere tutto questo non lo so, molto merito, diciamo così, del Signore. Ho fatto una vita sana, sportiva, niente abusi, cose così. Però una ricettina, quello che mi mantiene in vita proprio è i mille interessi che io ho. A partire dalla musica, a partire dal gioco del bridge, a partire da cose, e poi una cosa che mi rende serena costantemente, io faccio il volontariato ai malati oncologici terminali. io ogni volta che esco dall'ospedale, sì, tutte le mie amiche mi domandano: ma come ti senti quando esci da là? Ce lo devi dire, perché non è possibile che tu possa essere... Elsa, lei racconta nella sua esperienza i risultati a cui sono arrivati tantissime ricerche che hanno proprio evidenziato che cosa serva al nostro cervello per invecchiare bene: tenerlo occupato con tanti hobby, tanti stimoli, e anche sicuramente il volontariato è un'esperienza che arricchisce, ci dà energia, ci fa, no, vivere anche con un obiettivo, una finalità. Dottor Ongaro, intanto salutiamo e complimenti a Elsa, ma Elsa è un caso assolutamente ongaresco, direi, perché, perché mette in pratica tante delle indicazioni che si possono leggere anche sul suo sito, dottor Ongaro, in cui sottolinea non solamente i consigli dalla parte così per dietetici, alimentari e dell'attività fisica, ma proprio bisogna andare di pari passo anche con tutto quello che aiuta il nostro cervello e il nostro cuore, inteso nel senso più ampio del termine, a mantenersi vitale e aperto al cambiamento e al futuro. Sì, io credo che la signora sia un esempio bellissimo di tante cose, quindi le faccio i miei complimenti, e credo che in realtà sia più fautrice di questo successo di quello che lei si ritiene, ma del resto l'umiltà è un'altra di quelle caratteristiche che fa rimanere contenti fino alla fine, quindi è bello che si sia espressa così. Ma aggiungerei anche, tra le altre cose che sicuramente sono vere, il tenersi occupato, gli hobby, gli interessi, proprio questo aspetto del volontariato, perché una delle cose che indubbiamente emerge dalla ricerca sul concetto di felicità è che è molto legato al dare, al donare, al sentirsi utili, a sentire uno scopo nella propria vita, e quindi credo che abbia espresso un punto molto importante e spesso trascurato. Ci concentriamo troppo su se stessi, su noi stessi, e invece ci realizziamo di più quando ci concentriamo sugli altri. Dottor Ongaro, per 7 giorni lei ci accompagnerà con consigli che i nostri ascoltatori potranno leggere sulla pagina di Cuore Denari oppure ascoltare in voce, ma io dedicherei gli ultimi 4 minuti della nostra trasmissione, un po' meno di 4 minuti, a dei consigli molto pratici. Sì. Partiamo dai fondamentali, dall'ABC. Iniziamo il nostro percorso, ci faccia una guida in modo che noi possiamo iniziare a muovere i primi passi ed avere un po' degli orientamenti. Le lascio la parola. Allora direi il primo punto è di considerare sempre la mente come un muscolo. La mente è allenabile, c'è il fenomeno della neuroplasticità, noi siamo le abitudini a cui ci esponiamo, quindi non nascondiamoci dietro alle scuse: sono fatto così, è il mio carattere. Abbiamo la possibilità di cambiare sempre. Un altro aspetto importante è quello di capire che ci vuole un bilanciamento tra curiosità, novità, cose che ti appassionano, ma anche un certo grado di ripetitività, perché come ogni allenamento deve portare degli stimoli che siano riconoscibili da parte del corpo, del sistema nervoso, e che generano un certo adattamento. E l'altra cosa è, purtroppo Nicoletta, la maggior parte delle persone smette prima che la magia abbia inizio. Nel senso che la ricerca ormai si era ipotizzato già anni fa che ci volessero circa 21 giorni in media per stabilire un'abitudine, oggi ricerche più nuove suggeriscono che ce ne vogliono 66, comunque non sono tantissimi, stiamo parlando di 2 mesi per raggiungere che cosa? Raggiungere l'automaticità, cioè raggiungere un punto ben preciso in cui il non fare quella cosa ti costa più fatica che il farla. Ecco, le persone molto spesso smettono prima, e finché non si arriva all'automaticità non si può neanche beneficiare veramente di quella sensazione di leggerezza che il cambiamento compiuto, di orgoglio, di leggerezza, effettivamente porta con sé. Sarai sempre nella dimensione della grande fatica. Quindi l'invito che io faccio è: abbiate un po' di pazienza, cercate di uscire dalla zona di comfort, ma senza entrare nel panico del tutto subito. Ognuno ha la sua velocità, ma se riuscite a darvi delle nuove abitudini e effettivamente a portarvele dietro per almeno un paio di mesi consecutivamente, vedrete che supererete uno scoglio importante e le cose quasi magicamente inizieranno a diventare molto più semplici. Intanto il dottor Ongaro ci accompagna per un pezzo di questo percorso, 7 giorni. e quindi non so, rispetto ai 2 mesi di cambiamento sembrano poche cose, ma chi ben comincia è a metà dell'opera. Intanto, dottor Ungaro, lei, Anella, aveva suggerito eliminare gli zuccheri piuttosto che i grassi. Iniziamo, facciamo questo piccolo progetto, cioè di guardare, di ridurre gli zuccheri dalla nostra dieta, possiamo farlo tutti? Dalla dieta quotidiana, Nicoletta, lasciando sempre la possibilità di godersi di una bella eccezione quando ne vale la pena. Allora, occhio agli zuccheri, occhio ai consigli del dottor Ungaro che ritrovate a partire da domani sulle nostre pagine, in voce o con una pillola scritta. Dottor Ungaro, buona giornata. Grazie mille, grazie a voi. E buon inizio a tutti. Noi però finiamo. Noi finiamo, ma torniamo, sempre... siamo sempre qua, sempre qua. Ritorniamo domani in diretta alle 10:30. A tutti, buona giornata.